vecchia. Io sento i vecchi che dite sempre mi piace la pescheria, voi si chiama pescheria, non lo so, non riesco, non ci metto lingua. Ciao Pina, cosa vuoi, gli faccio la fotografia alla targhetta, eh? Bello bello Gianni, Luca, non so che ci sia in poi piazza pescheria e tiri, però non meglio in via Mercati. Vai, Fede, mi risulti, fa vedi sonno. No, in piazza pescheria, signori, io, Luca. C'è un cittadino, vedete, in piazza pescheria. In italiano si dice piazza pescheria, invece in sassarese si dice piazza pescheria, ragiava. Pescheria, signori, proprio in... Sì, mi faccio il numero di mamma. Spagnolo, io sono che vai... Se ne vedi tu pescheria, tu ne vedi il pesce. Ah, hai pesce, meglio. Allora, dici, piazza pescheria. Eh? O piazza pescheria. Pescheria? Piazza pescheria. E noi vediamo piazza pescheria. Saparino. No, ma è italiano, pescheria. Ah, no, se non si... Sì. La cucina o diarrea? Ah, no. Italiano e pescheria, come ha detto l'antarino, piazza pescheria, la targhetta è piazza pescheria sicuramente, io non l'ho mai vista. In paesino sarà piazza pescheria, no? Comunque sempre pescheria è, vabbè, ho capito, e poi ha ragione Pinangelo perché all'angolo con piazza Duomo lì così è Pina. No, negativo, è coso, è l'angolo, è piazza, no, non piazza, via Mercato è. Il numero non me lo ricordo, di Romilio, io ho conosciuto, ci manco lì 50, 49 anni ci manco, sono nato. Io ho capito qual è, siccome io lì andavo tempo fa, adesso non so se, però c'è un'altra vicino lì, via Duomo, piazza Duomo, vicino a Duomo comunque, la cattedrale. C'è una macelleria e piccolina, ci sono le scaline a scendere, da è sempre piena, mi hanno detto che la carne è molto buona. Sì, lo conosco, adesso non mi ricordo come si chiama, un tipo grasso, un amico di mio padre, lo conosco, anche lì vende carne buona, lì da Romilio, se entri, è come 50 anni fa, c'è un coso, c'è un... proprio di fronte al manco, dietro al manco, ci sono le corna grave di un bue, è rimasta quasi sempre così la macelleria. Ho capito, vuol dire che piacciono le corna a lui, vabbè. Vabbè, io vado a mangiare, dai, vi saluto tutti, se coincide ci sentiamo dopo, se no a domani. Ciao a tutti e buon fine serata, ciao ciao. Ciao, Luca. Ciao, ciao, ciao. E così, qui, no, comunque lì è bella, cioè, ti presentano la carne come si deve, costa meno di grasso. Scusa, Campanaggio, come viene, no? Ma quando mi ha fatto via Duomo, mi sono le carne, anzi. Ma se stanno andando via, ma lo posso, tu? Viene oggi, è sempre giù la prima, oggi, quando parlo. Qui già prende, non tanto che prende un mercato, tu vai di sabato, ci sono, c'è una cassiera e le macellai. Luca, ma comprava lì. Dimmi, Pina. Io la sua madre, se si ricorda come si chiama quella in via Duomo, è un amico in famiglia, ma non me ne ammetto se si chiama Nino o... non me ne ammetto come si chiama. La macelleria del re in via Duomo. Paolo, no, aspetta, sicuramente qualche parente. Ma chiamiamo nipote, o magari se l'ha venduta a buona pensione. ciao Pinangelo. Pina. Pina, lo senti a Gianni? Guarda, ho sentito uno zio, no, perché non... lui deve essere verso il conduttore, non ascolto. Prova a Sassa, dove sei già deciso? Pinangelo. Attenzione, è Pinangelo. Sassa, c'è un altro. Pinangelo, si ascolti qua. Mi sento, appena li senti la linea Gianni. No, non li sento, guarda, insomma, no, adesso non li sento proprio. Cuomane. Pino. Guarda, c'è il trattarino, sai, passi tu già, vai. Prova. Vai. Pinangelo, a passo. Guarda, vedete. Sono passi già. Ma io sono piccolo e nero qua. Come on, come on. Italiano, manco lo usa Sarese a farvi dar più. Fino. Ehi, hai detto un attimo, mi sembra che hai già pulito. Dire che lui è, non è un Sarese bimbino. E dai che farà il guerra, che ti voglio vedere. Sarese. Io lo faccio a misura mia, che subito Angelo, che sta carese a culito, che è. Mancherà occasione, dilli. Ah, che non mancherà occasione, non c'è problema. E lo vedo in me, ma in te due voci, no, che fino a capito, Gianni è natalino, sono vicino a me. Ma io il programma qua, una settantina di fatto, con Luca. diciamo che intendi di più. No, c'è lì, adesso guarda. Hola, hola. Stavo sentito no. Funzionano in contemporanea. Sì, anche un tico così della traversa. Segnale 9 abbondante, vabbè questo Twitter è un po' così avaro, comunque è intorno al 9, sì. faccio il fotografo, cacchio il cellulare, se no blu. Adesso qua ascolto. Basso. Non è zona nera. Zona nera. Non è zona nera. sì, già le palle. E Luca! E vai, Daria. Ok. Tocchi. Davvero? Davvero, ok. Io faccio piacere più a lui. Facendoli. Allora. Non c'ha da poco, no. Poco intendo 5 mesi, un anno. vabbè, perché non travagliati non aveva patente. Cappa. E nonostante avesse la patente era sempre in moto comunque. vabbè, quello sì. Meglio andare a piedi già, senza ombra di dubbio. Che ah, la buona patente che te la vendo io. Ho la patente, sono quasi 10 anni. Che faccio? Sono il camion. No, la bici, ecco. Eccola! Ducano. Ci prendi che tu sì, cosa offendi? chiusa. Non so quanto andava. Anche di chiusa, quanto andava? Anche dai bambini vai. Prima anche la Mataro, la Sardegna. No, la rotolata, appunto per te mi l'ho detto. Quindi bisogna o cambiare la cam oppure trovare il disco. fischietto per il drive. Sembra strano, a qualche parte l'ho messo. Sicuramente l'ho messo a qualche parte, non te lo ricordi. Vabbè, dai, ce lo vediamo al limite. Ma come vai, se ce l'ho così basso, Franco? E sono a casa in macchina. Spera che sono da Bullana, mi pare. Io normale. Pronto? Sta uscendo bene. Ciao a tutti, buonasera. Ciao, Califano. Aspettate un attimo, sta chiamando il sindaco di Sorso. Avanti, Antonio Giuseppe. Giugno 5 di luglio, gli Arusai. C'è Luca, Franco, Califano, poi non lo so chi c'è gli altri. Comunque, buonasera a tutti. Avanti, Luca. Arriva Luca. Lucano è lui. Avanti, Toscano. Non mi intendi, no? Migliore, gli ultimi saranno sempre i primi saranno gli ultimi, mettete che scuccate gioca tu, che sono a mal di schiena e non ne posso più me, col baracchino, giusto per farmi compagnia. E beh, Califfo. Allora, che si dice? Che si dice? Ma ha pizzicato d'ora a mal di schiena, da ieri. Oggi non sono uscito per niente, mi sento un po' meglio, adesso domani però devo uscire per forza perché c'ho mille cose da fare. Va bene, no, mi gioco un po' caseria, che Luca ti ha detto, mi andai a pescare con Franco, è scesa l'aria, quindi non dite niente perché tutta la settimana il tempo sarà bruttissimo, sta di nuovo piovigilando ragazzi, non di nulla, siete bindacci. E allora tu brutto tempo fino al 22, mi assegna. No, ma capite che arrivi in Azzari, arrivi in Stio. Cazzo, questa è la signora Madichena, Ha detto? Tu sei Madichena, vai. Vai, di là, la faccia la legge, Antonio, cioè vai. Madichena. Madichena, ho detto io. Che non ne posso più. E in Sassadeggio tu lo di Cina. Se vedi, a me vai tu, Sassadeggio non lo sai, ma non lo sai. Manco fa vedà. No, no, senti con me, sono in cuffia e non mi sono visto niente. Segna, mal di schiena, segna, mal di schiena, segna tutto, dove è il problema? Già la ci segna tutto di te, io figurati, tu ne puoi segnare una all'anno di me, ma forse per esempio la sigaretta in bocca ho pronunciato male la C, ma c'è mai compreso che l'odore è sempre chissio. KK, chi c'è di altri, oltre voi, chi c'è? Durore, in casa quando me l'ha fatto tre trazioni non l'ha fatto nulla. Allora mi fate male tutta la faccia. Guardate, sì, tutti italiani. Allora, tre da mano. Cazzo, ma quanto mi fa male adesso. Bravo, è meglio che ti faccia male adesso che dopo. L'estrazione è sempre quella che è più... Anche a me quando me l'ha tolto, uno lo devo mettere, sto temporeggiando, però devo farlo per forza, perché da una parte mastico di meno, dall'altra di più, proprio perché ci manca il dente. Bisogna farlo, i denti sono una cosa molto molto importante. Ok, Antonio Giuseppe, come è sorso? Spiove? Qui sono anni così, Antonio, sono anni, proprio anni mi. Adesso ero da parecchio che non ce l'avevo, forse ne ho approfittato un po', mi sono forse scoperto troppo in anticipo e quindi ho subito le conseguenze, però no, non ci sono problemi. Ho fatto una puntura ieri, una stamattina, già va meglio, adesso l'altra la faccio stanotte alle 11, devo andare a letto. Va bene, non ho mai so che cos'è, quindi non c'è da preoccuparsi. Avanti, Alto. Ragazza, già piano piano già fatta. Questo è che hai preso freddura o qualcosa del genere. Di freddura non c'è proprio da dirlo, perché io quando esco sempre abbastanza coperto. È che purtroppo il cambio della temperatura ne risente parecchio, poi dove lavoro io c'è molta umidità. Sicuramente in quei giorni che ha fatto caldo mi sono scoperto in anticipo, come ho detto prima. E poi comincio a prendere i colpi, purtroppo non c'è più ragazzini, bisogna stare attenti. Poi l'altro giorno ho preso anche la moto, la giornata non era molto bella, molto probabilmente mi ha fregato proprio da lì. Vabbè, pazienza, dai, non c'è problema, già siamo vivi. KK. E quindi fra, e lo vedi, andatoci alla Maddalena. Ma negativo, stavo a fare dei lavori qua a Trastri e poi alle 5:15 sono salito dal dentista. Ho fatto quelle trazioni e sono arrivato per alle 8, sono 10. Ma sì, la moto l'ho messo il telone qua. Tanto ho l'impressione che questa settimana non si possa usare. E si conferma, se lo sta guardando il meteo. Ha dato tempo brutto, come ha detto Antonio Giuseppe, qua perlomeno a Sassari se ti affacci è tutto nero di nuovo, quindi sicuramente stanotte si starà preparando un'altra nottata di quelle bestiali e domani mi ritrovo torno a casa, mi ha fottuto, sto sdraiato, bello calduccio e ciccia, KK, vai Luca. Tu mi Luca, attendi. Ma quel falconero che dico io, Ma c'è un autista, poi adesso mi pare che abita a Urbia. Mm. Ma è positivo. Beh, voi non mi conoscete con Franco California, Antonio José. Lui era il primo gatto silvestro, ti rammenti? Non te lo dico qua, già sei, te lo dico in persona, io mi sei ricoglionito. Ascolta, con la bellissima di tua figlia, quanti nipoti ti ha dato? E appunto, marito, con io vado, dice no, ma nell'arma è. Ah, ha fatto bene, tanto cosa, non c'è niente da offrire qua. KK. E tua figlia poi non l'ho più vista io. E una sola ne ha la figlia, vabbè. E andava così, io non mangio sempre una. Costano troppo i figlioli, e andava. Facciamo girare, dai. Già ne parliamo di persone. Avanti, Luca. E arrepentato un attimo. Non c'è con. Tu. Passo che no, vedi, mi devo già attaccato, vedilo tu qua, visto che c'è lui adesso. Guarda, Anto, io puntini ne faccio poco e faccio fatti non parole, però ti posso garantire una cosa, che se io attacco del tutto a manetta, perché quando mi senti tu non sono il massimo, per problemi di tensione, per problemi di tante cose. Ho paura dei cavi, perché c'ho il commutatore elettronico fuori nel poggiolo, che mi pare che sia sino a 1000-1500 watt, quindi non voglio rischiare. Però ti posso dire, quando io ero a Carbonati, non qua, a Carbonati, che attaccavo il TL922 e Tino Muscolo abitava in via Magellano lì, dietro il Bassanna. E l'altro abitava la casa cantoniera, per capirci, proprio attaccati, 100 metri non lo sentiva, non lo sentiva per niente. Ma però il discorso è che sono attaccati, siamo nella stessa casa, tutto, quindi segnale, segnale, micidiale, potrebbe sentire un po' di però non mi fa niente, perché siamo sempre nella nostra vita, quando è lui, c'è pochissimo. Ti ho già spiegato, Antu, ti ho già spiegato, eh? Le antenne ci vedevo, mio fratello sotto casa, sono bravi tu io, no? Lì, proprio sotto la mia antenna era, c'era questa portante, non so se era musica, se non mi ricordo, non passava, pensa tu, sotto casa. L'antenna tua e quella di tuo padre non si vedono, invece l'antenna mia o quella di mio fratello si marciavano proprio e non passava. Vai a farlo, comprendi tu. Davvero? Non so se prendo l'idea del segnale che è in mezzo. Poi tra dove si è aperta l'antenna, tra l'altro è totalmente preoccupata. Io ti posso dire una cosa, tra se parla tuo padre su di te, non lo so, perché tuo padre arriva molto forte, ma se parli tu a casa di tuo padre, non lo so, molto probabilmente ce la faccio. È una prova da fare, siete molto vicini, gli ho detto a Luca, però in proporzione mi pare una volta l'avevamo fatto, Luca, non se ti ricordi, che stavi parlando con Franco, mi pare stavi parlando, e io ho provato ad attaccare al massimo, e io sono più distante, sono più sotto rispetto a Franco, è micidiale anche con l'amplificatore, non è un giocattolo, capito? Un amplificatore che eroga un kilowatt a valvola con un assorbimento cazzo di 1000 watt, non è un giocattolo, io ti ripeto, lo uso molto poco, lo uso soprattutto in banda amatoriale, e quando a volte sono in 10 metri, che è una banda sotto di questa, proprio un'altra cosa, noi siamo in 27, io vado a 28 e rotti, e tu mi senti a me, perché non sto pompando, e sono solo al minimo, solo al minimo. Non è, no, so nemmeno di fare queste cose. Comunque, ti posso dire che è una bella bestiolina quella a fare. Bella, bella, forte. Parecchio. Vabbè. Avanti, Antonio Giuseppe. Antonio Giuseppe c'è il pesce. Vuoi prendere il tuo frate? Sicuramente ci ha lottato. Allora, sono in cuffie, bisogna di solito. Voi sei toccato? Io, sempre il tornado che ho utilizzato. No, adesso hai cambiato il radio, poco fa c'è il beat. No, sto usando il Skype, andate. Ma infatti, hai cambiato apparato per quello. È molto più alta come radio. Vabbè. Chi c'è rimasto? Ah, Luca, riprendi. Io sul Guasari. Ripeterò a voi, infatti io subito mi abbioccherò sicuramente. Presta anche il radio da questa a quell'altra. Sì, questa è molto più alta, però quella là è molto più chiara. Scappa, stai che faccio il Michigan. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 5, com'è? Va bene? Sì, meglio di prima. Io ce l'ho uno, oltre ne più tre. Sempre uno, non lo tocco mai perché altrimenti fa di truppa brutto. Ma Pierpaolo non c'è altro. Ma questo è l'M300, Claudio. No, mi piace di più, è meno prepotente però è più chiaro. Ragazzo. E questo lo devi vedere tu, non sono io a dirti che cosa devi fare. Io ti posso garantire che in questo momento io ho il tale più 3, il baracchino, l'alimentatore e il rosmetro, perché questa è la mia radio, sono le mie radio di una stanza. Se poi mi sposto nell'altra stanza, allora potete giocare quanto volete, ma a me c'è poco a discutere. E io ripeto, faccio fatti non parole, ma non voglio offendere nessuno. Ma me ne è un bel ancora di niente che devi superarmi a me. Ancora la giaudola mi ha portato, che mi ha superato. Comunque, stiamo parlando dei baracchini, parliamo dei baracchini e lasciamo stare le altre cose. Io così voglio parlare, se poi c'è qualche prova da fare, spengo qua e vado dall'altra parte, non ne ho problemi. Per il momento voglio parlare così, va bene lo stesso. Non so più cos'è. Di fare tutti i discorsi, te l'ho già detto a te e a Pierpaolo, perché le radio ce le avete, sono tutte radio belle, vi manca solo l'antenna. Quando poi ci avete l'antenna, allora si può parlare di tante altre cose. Provette, perché per Sassari va tutto bene. Il problema è che io non riuscirò mai a parlare se non sento tutti. Sentirne uno e gli altri no, preferisco stare in silenzio. No, ti posso garantire, perché per quello che avete, per le antenne che state usando, andate abbastanza bene, perlomeno qua dalla mia parte, poi da altre parti non lo so, non lo saccio. Io sono abituato così, io uso la radio dal 1972 e dal 72 a oggi ho rotto più le balle io che i pigioni e i corvi quando cagano le macchine. Buono, sto dicendo io, nel senso di prove, provette, eccetera, eccetera, capito? Quindi, mi ha giovato Dante di Bruvi e molta gente è rimasta delusa con me, perché a parte la zona che avevo prima e questa di adesso, se non ce la faccio con l'antenna io bompo, finta cuppiarli rossi all'antenna, a farli di buchi in alto a di pone i vascetti, basta che scoppia. Io sono una macchina da guerra, purtroppo, mi reputo una macchina da guerra, fino a quando va bene così, quando c'è a fare la guerra, io avvolto la guerra, non mi dirò andare dove nessuno, mancare l'indusio il Presidente della Repubblica burro, a me poco mi interessa, se uno mi dice devo fare questa prova e io ti grebo, va bene, tu mi grebi, allora rimani così, che io riesco a rivendi, non ti preoccupare, e poi si vedrà. Poi si vedrà. Un mio carissimo amico che non parla più alla radio mi diceva sempre, Gra, l'unica difesa è l'attacco. Quindi io attacco sempre. Poi, se uno si deve difendere, si difende. Giusto, California? Gappa! Intanto io davvero prima non avevo niente, qua sono in mezzo, sono nel triangolo delle Bermuda, però, c'è un però, E io prima di venire qua mi ho fatto tutti i calcoli, ho misurato la terra dall'alto col portatile, con le V, con le U, misurazione, radiazione, conti e conteggi. E la matematica quando uno trasmette non è un'opinione. Questo è troppo, l'M25 non è quasi, questo ancora. Con qua disturbo io, Anto, non disturbo nessuno io qua, no? Capito? Poi se sbaglio, sono la mia moglie quando è coricata, qui, dove sono adesso, me l'ha trattata non neanche, perché adesso il prossimo mese inizio i lavori e da quella stanza ne faccio due, quindi mi esce una bella cosa. Adesso appena sto bene, deve venire il muratore, prendere le misure e fare la parete di cartongesso con la porta scorrevole per l'altra stanza. Quindi quella me la prendo io e poi devo aprire la finestra e facciata. Quindi sto aspettando tra l'altro il progettino che devo presentare. E niente, perciò no, non è quello il problema. Io non disturbo nessuno qua, ma sempre non disturbo nessuno. Perché è stato fatto tutto a regola d'arte. I cavi sono buoni, i PL sono buoni, le linee di tensione sono buone, le masse sono tutte tassellate a muro, io purtroppo faccio così, anche perché non lo puoi fare, far andare una radio con un amplificatore da una presa di corrente con una ciabatta, ma ti vado per dire, io qui in cameretta, c'ho la presa ed è attaccato l'alimentatore, ma c'è un baracchino con l'alimentatore. Nell'altra stanza dove c'è la vera sala radio, così chiamata, e ci sono le radio che devono avere un certo livello, lì c'è un salvavita con una tensione a parte presa direttamente dal contattore. Quindi cioè, le cose vanno fatte bene. Se tu rifai alla cagada è chiaro che poi rientro di RF e casini vari e ti creano un sacco di problemi, quindi allo stesso tempo se è RF interno ce l'hai anche esterno, quindi inizia a disturbare tutto il vicinato, io non disturbo nessuno qua. Ho 4 e mezzo, ho fatto l'anno scorso la variazione di 1,5 kW di più, proprio per avere tensione costante e tensione buona da non potermi creare problemi sulla radio, tutto lì, ma non è che sono io così, tutti quelli che hanno le radio cercano di fare le cose fatte bene. Ma io se tu vieni qua e metto a parlare con l'applicatore acceso, ti accendo il televisore, io non disturbo niente, manco ce l'ho a 2 metri, capito? Non lo disturbo. non lo disturbo, ma non perché io sia più bravo di te o più bravo di qualcuno, e l'ho fatto così, anzi l'ha fatto così l'elettricista quando io sono venuto a abitare qua. Io ne ho due contatori, uno per la tensione delle radio, uno per la tensione di casa, un tocco salvavita. Due contatori, sai, ma ecco, io credo che era tutto uno, portare i 4 kg da tutto uno. Io ho due contatori, due con salvavita, tutti e due uguali con salvavita, uno da 4,5 e uno da 3, capito? Quindi ho fatto fare proprio questo quando io sono venuto qua, perché la casa è stata tutta ristrutturata a nuovo, tutta la A alla Z, proprio è stato fatto questo lavoro per non avere problemi. Non l'avevo mai collegato perché non mi serviva. Nel momento in cui uso quel tipo di amplificatore, quel tipo di radio, ho dovuto per forza utilizzare, l'ho fatto l'estate scorsa. È venuta l'Ener, mi ha attivato tutto. E quindi io alla linea delle radio ho salvavita che sono collegate lì, perciò non prendo tensione dalle spine, dalle prese. Tant'è vero che se tu vieni o vieni sulle radio non ce n'è di fili attaccati, non mi vedi di nuda in terra, perché c'è un cavo sotto traccia dove esce la 220 ed è collegato a salvavita all'ingresso della porta, no? C'è uno sportellino in legno, tu lo sfili e lì ci sono i contatori. Vabbè, dai, se no fa vedere sempre noi, tu. Mi sembra aver sentito a Pedro facendo prove. Pedro, se mi stava facendo le prove, si teso, ola. Lì da te. Quando stavi parlando, ho sentito ola. Altro non te lo posso spiegare qua, dai, se no quando ci vediamo domenica mattina te lo spiego che cosa ho fatto. Ci sono due intestazioni, Antu, per capirci, ok? Quindi solo così si poteva fare, ok? Va bene, siccome qua io la residenza ce l'ho davvero prima, questa è intestata a mia figlia, perciò ci sono due intestazioni e si può fare tranquillamente. Poi amici ne abbiamo anche lì, non c'è problema. Lui di lì quando ci aveva la fare carbonata, beh, se vedevi i fili in mezzo ai piedi. Domani. Poi no, che ne hai visto fili no in mezzo ai piedi? Lui bisogna fare la volta. Così vogliamo fare, boh, sono da qua. Tu immagina tanto che io ho portato la linea qua in camera, io ho la linea in cameretta, camera da letto mia, dove c'è una mini scrivania piccola, dove io ci sto benissimo, c'è il baracchino, il microfono, l'alimentatore e il rosmetro. Se tu vedi il cavo, mi trovi il cavo che arriva al baracchino, il cavo di alimentazione, io devo arrivare alla radio. È sottotraccia, l'ha già predisposta tutta, perché inizialmente questa doveva essere, siccome è più grande, doveva essere la stanza mia, perché mia figlia doveva rimanere sciacquato a nonna, invece poi vabbè, eccetera eccetera, non è che si può fare tutti i discorsi personali, poi alla fine allora mi sono dovuto arrangiare così, però è già tutto predisposto. Soprattutto in questa stanza, nell'altra invece l'abbiamo fatto dopo, prima di portare i mobili, capito? Fatte le tracce al muro, passata la canaletta e poi richiuso tutto a stucco, capito? Tu dici a Franco California quanti PL e quanti connettori abbiamo recuperato a carbonate quando abbiamo tolto le radio, te la metto in braccio, se l'ho visto di Saniara, che fa? Franco ha assistito a tutto perché lui e Mario mi hanno fatto una mano. Prima abbiamo portato via tutto, quell'angolo abbiamo lasciato così. abbiamo messo le coperte sopra, smontato tutti i mobili, a ultimo non c'era casa vuota, a ultimo sono andato a smontare quello. Prova di là Franco, due gofani pieni di macchina, di radio, in più sopra i sedili, e con quattro buste tra connettori, PL, adattatori, cosa non vede. E poi cavo, quello che entrava dalla finestra, arrivare, sì, quello che era sotto traccia l'ho perso perché l'abbiamo tagliato con la forbice, l'abbiamo sfilato da dentro il muro. Ma era una cosa allucinante, fatto veramente bene, con le masse tutte tassellate, fatte. Ma l'ho sfilato quello che c'era, sono stato una decina di metri. E poi invece ho recuperato tutto quello di su, delle antenne, quello abbiamo recuperato tutto con Franco. Poi alla grande. E Antu, io lì abitavo 23 anni e non abitavo un giorno, quindi era un lavoro fatto bene, come fatto bene qua. La stessa cosa, ma io lo dico sempre a tutti, poi qualcuno si può offendere, qualcuno... Io non ho mania della grandezza, però mi piace fare le cose fatte bene. E quando mi chiedono un consiglio dico sempre fai così perché è fatto bene. Purtroppo la cosa principale, l'antenna, i cavi, i connettori, cosa compri? I connettori in plastica, che non servono accidenti, vanno subito a massa. Io ho tutti i connettori da 7-8 euro, addirittura ne ho anche con le punte dorate, li trovi solo in continente, li faccio arrivare al continente, tutti i PL Amphenol, tutta roba professionale, perché intanto quando tu compri un euro o un PL, vai a saldarlo e ti si brucia, poi usi potenze più alte e comincia a cadere di giugli, e allora bisogna comprare cavo buono e PL buono, se vuoi che la roba ti duri. Io il cavo che avevo sono carbonati, la plastica era completamente, già si vedeva che era mangiata dal sole eccetera, con la taglierina l'ho aperto, la calza dentro era nuova, perché il cavo era buono. molta meno roba, però hanno in due amplificatori che costano 10.000 euro, capito? Amplificatori, senza contare il radio, perché uno di questi ha una radio, una solo, che costa 14.000 euro, senza tutti gli opposti, ma finita questa radio, tra monitor e tutto, costa intorno ai 18-20.000 euro. Una radio, di quelle ne ha quattro, tu conta solo di quelle, senza contare tutto il resto. Cioè, c'è gente che per fare attività radio, tu come capitale di stazione c'ha più di 150.000, 200.000 euro, ma visti da me, Natalino lo sa di chi sto parlando, senza fare nomi perché non si fa, ma capitali grossi e radio belle, radio che servono per fare attività, senza contare i tralicci e le antenne, che ci sono antenne che costano anche 15, 16, 20.000 euro. Appunto, noi siamo mosche rispetto, non che io già abbia 10.000 euro, 15.000 euro di apparecchiature, non c'ho niente, non ho niente, confronti a certa gente che veramente fa attività radio, perché noi facciamo i CB, nonostante io sia radioamatore e continuerò a vita a fare il CB, non me ne fotte nulla, e quando ho 10.000 euro di radio, non ho niente, capito? Perché c'è gente molto, molto più avvantaggiata e in proporzioni di tutto, quindi è meglio chiuderlo qua il discorso. KK Carifo, io te l'avevo detto. Cos'è? Io te l'avevo detto, buonasera, che facevi il CB, che ti piaceva troppo la 27. Io continuo a farlo a vita, Gianni. A me di quello che dicono gli altri lo sai benissimo come la penso. Io posso stare un mese, due mesi senza entrare, ma perché non ne ho voglia vi ascolto volentieri. Ma a me piace parlare così e parlo così. Anche perché, attenzione, non mi è mai piaciuto, nonostante avessi tutte le antenne prima, adesso ne ho la metà, devo piazzare ancora un'altra. Mi piace avere tutto ma non avere niente, parole poche. Cioè, nel senso che a me l'attività di ex in banda amatoriale non me ne frega niente, mi piace più divertirmi qua, farmi due chiacchiere con un tedesco, con un inglese, con uno spagnolo, e prendere per il giro, per dire, un brasiliano, che stare lì e fare le cose serie. No, me ne fotti nulla. Poi chiunque voglia dire, dica a me, io sono fai da te, come il povero Angelo Plifo. E qua chiudo il discorso, sennò poi si aprono polemiche, si aprono determinate cose che non mi interessa neanche parlare. Le libertà di parola, a futidini. Ciao a tutti, Coca, buonasera, adesso rientra. Ciao, Antonio. Ciao Antoine. Ciao Gianni, che non avevo salutato, anzi ciao a tutti, così almeno. Se no, poi mi dicono che sono maleducato. E fai cocca di vai. Subito, coccuomane. Coccuomane. Ciao Lesia, coccuomane. Paoletto. No, ciao Lesia, coccuomane. Paoletto. Mia Pedro, c'è anche Franco California, se non si è... non se n'è andato al computer. Non ho visto che ha acceso la sua icona, vuol dire il computer. Ciao Gianni, avanti Pierpaolo. Pierpaolo, io... la gara va bene da oggi. Deve essere indaffarato, vende modifiche. Raga, lo va, se non perdi il beggio. Quella cosa con California è diventato esaurito con questo computer, non è tra più. Il mio acceso c'è l'aria, ma ho visto che c'era l'icona sua sul messaggero aperta, quindi sicuramente è il messaggero di un caffè lungo. Vabbè, io vado a fumare una sigaretta, io mi aspetto, riprendete voi Gianni, fai girare tu, c'è anche Luca in quel Rix, poi Natalino, io, Antonio, Pedro, prova a richiamare a Franco, a se vuole entrare, io già torno subito. Ehi, avanti Franco. Niente, Luca, riprendi tutti, Natalino, avanti. Mi ha bisogno, Deo, già, non sono esaurito sono tutti esauriti con computer. Oh, se il computer avessi stato da me, io già ho tratto poco. Ogni tanto me lo accendo, mi faccio un giro e poi mi stufa subito adesso. Infatti, e io facevo, stavo usando, ma perché dovevo fare roba importante, tanto c'ho l'Office 2007 già una figata. E allora bisogna farci installare anche noi. Cava. Andare. E tu Luca, col computer come sei? Luca. Ma la vuol dire mancato. Sei un corcuomo, la persona. Adesso c'ho un punto in tre, già. Adesso me lo metto a posto. Io ho già messo magnetatore che avevo, io l'ho iniziato a molto aderente. Allora nel mondo acqua c'è un altro server, ci schiavo tutti i programmi su internet, guarda sempre attivo, lì chi vuole entrare entra e si prende quello che si deve prendere. Sempre vendici, sempre mazzinetti. E via. No, io non ce l'ho più la passione, prima stavo sino alle 2:30 di notte, sempre al computer, ma adesso no. C'avevo un bel giro, c'avevo la chat, ero vice moderatore, insomma, quando c'avevo la chat c'era un bel giro perché facevamo anche le pizzate, le cose, ma adesso ho perso tutta l'entusiasmo. Perché se la piazziamo, metto un server a disposizione e la piazziamo già. Adesso sono a pagamento, mi pare. Ah, io lo voto gratis, lo do a pagamento. Privo io, la priva lei, la priva franca, che sta mica mia. Se rompe per la scatola qualcuno, una bella battellata e via. Adesso lo metto sotto quel sentinel, così almeno quello già lo lascio acceso, il mio mi serve a mettere i fatti. Vedi l'altro monitor, no? Non c'è bisogno di monitor. Capisco. Tanto lo posso vedere al mio. Ti metti doppio cervello? Sì, lo collego al mese, al mio, la piccola, e se voglio vedere la situazione la vedo dal mio. Pagato. E vabbè. Cosa sto facendo? Biturbo. E a lui. Cazzo di mio, non vai a seggio, non è più un bene, perché è un bene di nice. Ehi, ehi, anda bene, anda bene. Non problem. E tu, Anto, il computer lo usi? Lui va a fare un paio di volte, ma non è tanto male. Mai, non ti piace? No, non mi attira tanto. Lo usate così un paio di volte, ma... E magari perché non conosci i siti, perché ci sono dei siti che magari ti possono interessare, di tutto c'è di tutto e di più, è un mondo. Sì, no, per il più è imparo anche più cose, mi permette una volta di lavorare, a capire qualcosa, però no, non mi piace mai. Te ne avete due di no, sono in rettili. Paura di sbagliare o che cosa? Beh, ti metti con tuo padre vicino e ti fai consigliare da lui. No, non mi interessa la verità. Beh, se non ti interessa, ma a scoprirlo... Anche io all'inizio non ero interessato, avevo paura, ho detto, ma c'è una cosa tutta complicata, un casino, invece poi mi sono messo tranquillo e ho cominciato a masticare. Non è quello già, non voglio toccare, sinceramente, no. Non so se... interfaccia, ho esaurito il cuore. Sì, già ritengo di far vedere io su Cusor. Sì, già lo so quindi è. Sono problemi tuoi. Ma tu non hai bisogno di essere avvistito, ti andrà avanti. E avrei detto tu, però non l'hai giustito, quindi. Già, non ti sto parlando. Tanto non lo so quindi è, sta giusto che lo so con il cotone della natura. Hai detto tu dov'è, non dai la colpa a me. Come te, lo sai, ho ammassato il cannello, la striscia. invece loro sono le uniche cellule che non muoiono, che non ricascono se muoiono, quindi bisogna tenere sempre attive. Ma devi mangiare tonnellate però di pesce per avere disponibile gli omega 3 che sto dicendo tu subito, e già lo sai. Se no ti devi pigliare i bacini. Sentito, sì. È un mascalzone Natalina, stai inventando. Poi quando parlo io dice che sono sempre io. No, ci mancherebbe altro che il fatto. Che è tutt'ina. Ne ho uno cara, l'ho guardato, gli ho fatto un trofeo l'altro giorno. Ma te lo faccio vedere. Però c'è ragione Natalino, se fosse la festa di Pericoma ci sarebbe andato. Per un momento ti ho mangiato dalla fabbrica che avevo visto. Ma tu mi hai dato dove ci hai messo il Buccarotto? Io ci ho andato e mi hai dato la goppa a me, 10 anni fa. Ah, vedete, io l'ho vedo in piazza università un tempo, adesso non so dove la fanno. E in piazza università hai giubilato la goppa. Capito. Io vedo ciò, mi hanno buttato questi amici. E mi hanno lì davanti tutto organizzato, c'è un nuovo cognome, sono stato il terzo classificato, il terzo Buccarotto di Sassari, altri immaginati. Primo era uno di Santa Maria, lì, abitava vicino, dove c'è il circolo ferroviario, c'era lì, chissà carriera, vedendo dei vermichiletti, buono, non lo gioco se ci sono case, lì dietro abitava. Cosa dovevi fare per fare il Buccarotto? Non avevo già fatto niente, ma non è cognome, mi ha dato la coppa, terzo Buccarotto. Ah, sorteggio era. Era tutto organizzato, era Massane di Varia. Ma lo sai chi era organizzata? Ma non te lo dico qua. Non te lo dico qua. 10 anni, forse di più di 10. Il meccanico, capisci a me, quello grosso, l'ubitore. Ennio Torre Bravo. Sì, ho capito tutti chi era. Acciugavino. Ammazza ne di varia. Pauraggio. Ehi, altro giorno io, Pauraggio. Non so, Marco Lovergola. Ah, una coppa piccolina, mi cante un microfono così, un microfono di tavola. Così piccolina era. E la medaglietta c'era col portachiavi. Chi ha portato a me, non so come accogliere, ha detto Dio nessuno, chi ha portato a me a vedere questa festa, era tutto organizzato, nel senso che dovevo salire io, capito? Magari questi hanno portato a me, non so se tu sai chi sono, ma Gianni già capito, conoscevano tuo zio. E chi era tuo zio? Ma Mario Piogaro, Rugoso, vetraio. Di Mario Piogaro che conosco uno, non so se lui, ma anziano è. Ma via Mosca Gesuino, ma Cosio, come si chiama? A Iaio e a Luigi, dei fratelli Pio, dei tre fraiaggi. E poi quelli che del vetro per da niente altro non ne conosco di Pio. Abbiamo fatto la gara dei sacchi, abbiamo fatta lì, dove c'era il vecchio piazzale prima di fare il, come si chiama lì, il tribunale, cosa è lì, a Santa Maria lì, nel Conce, Santa Maria, Corso Vico non era così. E quanti anni saranno? Io ho detto di più di 10 anni sono. No, io penso che poi ne ha organizzato un'altra allora. E allora deve essere quella, non voglio sbagliare però. Già, quanti anni è che manca il pittore dall'inizio di Via Grazia d'Eletta? Una vita, Ma Giovanni stai dicendo, sì. Eia! È una vita, sarà... sarà al minimo 20 anni. Allora ho ragione io, va, più di 15 anni sarà. Io mi ricordo, avevano fatto io dove stai dicendo Maria Luisa. Non so se era la seconda, la terza, c'era la gara dei sacchi. La Cuccagna, a lui era rugoso, vabbè, quando la cola di calcio l'hanno sempre fatto. E poi non me lo ricordo, ma ero un ragazzo io, dai. Sono 20 e forse avevo poco più di... Non ero neanche sposato, ero fidanzato, figurati. Ero fidanzato, io abitavo via Montegrappa, con mio suocero, perché lavoravo a Sassi. 22-23 anni avevo. Quindi era già Maria Luisa, è un bel anno fa, vabbè. Comunque se la trovo ve la faccio vedere. Da qualche parte l'ho messa. Se no è carbonastica, che cascetta. Perché c'ho tutto, io conservo sempre tutto. Ah, coppa piccolina, terzo classificato. Tanto un microfono, usciate un tale più estremo. E tu te la ricordi per qua quella festa, quelle feste che faceva? Io già me la ricordo, una voglia. Non ti ricordi in che anno è più o meno quello che avevano fatto lì tra Piazza Università, quella zona lì, dai, dove c'era, dove adesso è nato il piazzale grande di Pulma, dai, chissà cosa cuscino, ma metto adesso esattamente il punto, comunque il palco era lì dove facevano la festa della di quegli anni prima di Cavalli. No, guarda, la loro festa sì, quella della Luca oggi qui non l'hanno mai fatta. Piazza Università è dietro, scendendo da via, come si chiama? Bah, aiutami. Hai ragione, Piazza Università quella è, scendendo lì da via Coppino, la parallela con la Piazza Università è. Rotonda. Piazza Università si trova, piazza dell'università, di quanto l'università, lì è storia. Quindi, oh, ma non era così allora lì dove c'è la questura adesso, di fronte, la parallela, di dietro te c'ho tu. Io passavo da giù, ti sto dicendo, quindi mi sembrava più verso dove c'era l'ex deposito dell'Ast, che è Piazza Università, che della gente che vede è tutti in chimica. La faceva di fronte all'ex deposito del monopolio lì. Università. Vabbè, io non ho già bisogno di Piazza Università, tu sei già Saleggio, non sono già Saleggio, ho avuto due mesi. Io quando andavo lì mi ricordo che non era così quella piazza, l'università non era così. Io entrando da sotto, entravo dove c'era la stazione dei Pulma, allora dove adesso è nato il parco lo deposito, diceva, ma i Pulma, dai, quelli che erano i amici con Garibaldi prima. Quindi io salendo da lì, tagliavo in quella viuta dove c'era Circovado, e per me mi sembrava di essere tutto in chiave, invece chi sa piazza è Piazza Università, va? No, è sempre stata Piazza Università quella. Non lo sapevo, per me era tutto Santa Maria, Corso Vico, come stavo dicendo a Maria Luisa. Io salivo là sotto, a Chiro Bulma ci fermava lo treno, arrivava a Chiva di stazione, quindi arrivavo, quando io arrivavo alla stazione, da Porto Torres, e passavo lì in mezzo, dai, attraversavo Corso Vico e poi facevo quelle stradine che ci sono di Sassari Vecchio e mi portava direttamente in questa piazza. Sì, questa università è qua. Uiaia. Allora a me i colleghi del comune cosa mi chiedono qua. A vedere che circolo frequentavo, io vado a frequentare un circolo di Damia. No, lì c'era Ferdinando, il circo, poi era lo circo dei Gattaroli. Sto parlando di anni e anni fa, poi mi ricordo, comunque non era così come adesso. Io pensavo che Piazza Università era nata dopo di quegli anni lì. Invece Pierpaolo ha detto che è sempre stata Piazza Università, io non l'ho conosciuta così, l'ho conosciuta in ovvera nuda praticamente. Quindi pensavo che era tutto lì, una piazza diversa, dai. E vabbè, comunque quella festa si faceva lì, perfetto, ed era bella, bella, bella, bella. Poi l'hanno fatta anche a Porto Torres, però non era chiamata la festa di Bucarotti, era chiamata la festa di... Allora me ne ammetto, un nome strano lo stesso, dove avevano organizzato una cosa del genere. La vecchia festa grande che si faceva già, se ti ricordi, no? In Piazza Garibaldi, quella già me la ricordo anche se venuto in Chivio, facevano la cuccagna, l'organizzavano, mi sembra, i marinai, no? Sì. so qua, la prima cosa che sento, non lo sapevo. E vabbè, io ho la festa grande, è pochi anni che ci vado, non è che sia da molto. Prima non ci andavo mai. Tu sei 23 anni a Porto Dora, non ti ricordi come facevamo la festa grande prima? Da dove lavori tu adesso, a scendere tutto al corso? Fasiani, la gorsa dei Garruzzi, dei Manipatti, di chi mi vietò le sacchi. Facevano la corsa di sacchi lo stesso. In piazza Garibaldi organizzavano l'albero della cuccagna. Un paro mano a mano, come facevano lì Corso Vico, io dico sempre Corso Vico, ma Pierpaolo ha detto piazza Università, comunque lì dove facevano la festa dei Bucarotti. C'era questo albero grande grande, con sopra tutti i premi, e mi ricordo un anno aveva vinto Tonino Grieco, però era stato come tassazia e l'ebolo della vacca, del peschereccio, no? Assieme a Antonio, allora Antonio Occulto non era così grasso, era più magro. Ci facevano i lacci con la corda e assaziano i movimenti di bene con la corda. Come la corda entrava in tira, praticamente faceva tipo un nodo e quindi loro salivano su. Arrabbiatura proprio, arrabbiatura. Avevano vinto lui e Antonio Occulto, quello me lo ricordo perfettamente. E invece lì alla festa di Bucarotti ha vinto questo ragazzo che abitava proprio lì dove c'è il circolo ferroviario, dove c'è il ponte, dove c'è la ferrovia, lì sotto abitava, lì dentro si entrava in questo vicolo, io di Virabino Mu prima, lì dietro, non so se ci sono case, perché l'aveva detto lui. E un altro era uno, non lo so, io ragazzino, credo di Sassari lo stesso, Gappa. E tu che fa? Non hai visto gli altri mai di coppia? La coppa del nonno. La coppa del nonno lì me l'ha sempre mangiata, povero culo. Un caffè. Dove c'hanno le case, là? Ti trovo a Maccallelli. Infatti, secondo me sì. Dietro lì abitava, no? Sì, Maccallelli abitava proprio nel palazzo della ferrovia. Io sono andato anche a casa sua, a casa di Maccallelli sono andato. Non era così, era strada bianca lì dove c'è il ponte adesso. Eia, tutta strada bianca era, poi si scendeva verso giù, sulla destra. Però abitava lì allora, proprio come stai dicendo tu. Perché io risultavo dall'altra parte, ma lui col dito mi ha detto, perché poi siamo conosciuti, sai, i tre classificati, più Bucarotti, che si è già di lì. Ma trovi, io sono il produttore, cioè, non so come che me ne ha detto brevi. E mi era Giovanni, Marco, con Nonnino, Bisciati e Risati, poi vabbè, loro erano già sposati. E poi chi c'era? Non mi ricordo, ma un sacco di cibi c'erano comunque. Un sacco di cibi c'erano. E niente, lui mi ha indicato che abitava lì. Vabbè, poi non so come, quindi so che tu la dici comunque, non hai visto. Antonio! Ancora Abu, non me lo ricordo, io mi ricordo abusivo, no, tassisti c'era quella di Gnogno, che mi ricordo. Poi gli abusivi non. Fattore di trattore, trattore me lo ricordo, fattore non mi ricordo come si chiamava. Grazie, ce lo so per la lingua. In questa di martedì c'è il via inizio. Vabbè, che sono traffici, 6 busti, 8 busti, una cosa del genere. Da Sennoli viaggiava già. Da Sennoli a Sassari, scendeva anche a Porto Torres, faceva Sennoli Porto Torres, Porto Torres Sassari, anche il Renault Traffic. Io te lo volevo dire in fretta. Giuseppe non trattore era il fratello. E lui si chiamava Campo Santono perché era Giovanni. Proprio un nome italiano comunque. Roba di Campo Santo era, no? Mi vigila fuoco d'ora già farendo. Lorenzo termometro! No, lui c'è un altro. No, non ricordo come si chiamava. Buon nome strano, va via, no Natali. Eia. Sono dentro di Grale, si era tutte le ore, senti, è proprio luogo di passaggio. Io però c'ho la finestra aperta, c'ho le tanzariere io. Mi una me la devono piazzare, se ve la vado, sabato a Manzano, Mario. Che è quella grande, la porta finestra, che è l'ultima che ho fatto fa. Adesso c'è tutte le tanzaniere, quindi è tutto aperto, se no poi la notte quando chiudo tutto, non si intende manco la moca pura. Però non spento subito le sirene, deve essere di nuovo al chilometro, qualche casino è successo al chilometro. Quello lì, ah? Sacramento si chiamava. Porca miseria, Sacramento gioco. Già me lo ricordo io. Mi perba. Perba. Stavo dicendo che in piazza universitaria facevano agli orsoro anche una trafetta famosissima. Perba, io ci sono a Sassari 27 anni ci sono a Sassari. Se tu mi parli nell'arco di 27 anni, magari l'ho conosciuta, mi ricordo che facevano qualche sagra lì in piazza università, però l'ho conosciuta molto dopo di prima di arrivare a Sassari da sposato, che mi sono sposato nell'85, quindi, però bazzicavo anche prima a Sassari, non lo so, che festa era? Era famosissima, fino a 25 anni fa era 80 circa, se non mi sbaglio, chiesa sarebbe che la conosce, e la cosa che favoriva la festa della matrica, che faceva il processo coriardico, e purtroppo per via che adesso ci sono tutti i santiti e tutte le cose che ci sono, non si può più fare perché era abbastanza volgare. No, non l'ho conosciuta io. Facevano il processo alla goliardina, no? Facevano una grande festa, poi c'era questo processo goliardico che era una cosa spettacolare dal punto di vista goliardico, però c'erano troppe porcherie e allora era stata ambientata. Credo che sia ambientata in tutte le parti d'Italia, perché il caso prima era una cosa incredibile. Per parte, lo ricordi quando facevano la sfilata al corso? Sulla mattina che dovevamo tenere pure Piazza d'Italia, caro, perché l'Italia, ma allora in bocca a vino, fatene proprio le cose goliardiche. Tiravano il piscio addosso alla gente. Sì, sul piscio, no, qua non si può dire cosa si facevano, ma caro, guarda, perché io lo vedo, sai quanto l'ho visto io, il processo goliardico che Tu eri fidanzato ancora quando noi ci trovavamo al Sacro Cuore, eri ancora fidanzato con Paola, che mi dice che oggi mi sono goduto un video e non sono andato dall'appuntamento, finalmente. Ehi, la mia curiosità. Quindi Natalia l'hai conosciuta la festa grande come l'ho conosciuta io da ragazzino, ti ricordi quello che faceva, no? Non te la metti per dire la gara di manopattini, di carruzzi. Ehi, l'ho conosciuta perché io, ti ripeto, sì, addirittura mi verrà detto, era militare Mario, e la moglie era già incinta, praticamente lei era incinta, lì era a casa di facendo il militare. Io mi ricordo perché ero mi biasia e sciavessa, poi figurati che sto anni senza andarci, non ci vado più oramai, non ci sono manco sceso né la festa grande né cavalcata, ci ho invito tutte queste litagini, forse anche nel giuvito gruppi. Vabbè, va bene, dai, io vi saluto e adesso mi vengo a organizzare la puntura su già 11:15 e poi metto a letto. Grazie alla compagnia, ciao a tutti, Gianni, Natalino, Luca c'è ancora la Scott, Maria Luisa, Antonio, Pierpaolo e chiunque ci fosse. A domani, buonanotte a tutti. Ciao Cla, buonanotte. Avanti Natalino. Ciao Cla, buonanotte a tutti. Ciao Cla, buonanotte, buonanotte, ci presentiamo alle prossime, ciao. Si conferma, brava. Buffonelli, pure a me mi fa lo stesso, quando stai complessi, roba lì, prima ci durava un bel, adesso stanno in piedi e mi fanno male i reni subito. Cazzo, mi sono dimenticato una cosa che è maleducato questo. Cosa era lì? Mi sono dimenticato una cosa. Hai mandato un bacio a Maria Luisa, gli ho mandato io prima di te. Cocuomane. Cocuomane. Prego, scusa farmaceutico. Fatto sta che una volta lo chiamavamo Girino, una volta si è alzato indietro e mi ha detto guardami la coda, attacca le due carri. Ma tu la sapevi quella di Giacomino in via Marinotti? No. Mi stava facendo la manovra da così. Non lo sapevo. Vai, come non lo sai? Non lo sapevo. Ma se adesso scende guarda mi sembra, io mi rubo al giù. Dura a scappare, ci sono le case, lì prima c'era un fossato, c'era. Se c'era buio gli ha detto vai guardami dietro Giacomino, ma se ci aveva visto dai suoi titoli come lei vorrei dire vieni a un certo punto dice che non l'ha visto più, cazzo non so cosa sta finita, non l'avrò messo sotto, se esce non la guarda Giacomino cazzo gli senti il sotto cazzo, oh cazzo se l'ha parato in altro cazzo l'ha parato Giacomino. E tanto non bevia il soia, ma di vigno si beveva la mattina. Cazzo tutto troncato, cazzo si era tutto troncato, si ragazzi. Era sempre drumito, lo chiamavi, già con me, è spottato la testa come se fosse spaventato, te lo ricordo? Sì, se non me lo ricordo. Poi passavamo a mostrare il sito da lontano e già era con le parolacce. E poi può creare maloso, io. Certo, dai, sai il caso, dove troppo arriscato. Ma Giacomino avete visto, che cazzo sono quelli di Giacomino, non eravamo dico. E se non c'è più, capito? Ma tu la volta che l'avevamo fatto credere che Manola lo voleva, doveva comprare il regalo, te lo ricordo? No, non c'era Manola. Che era innamorato di Edu, questo e quell'altro, abbiamo comprato il regalo Giacomino, ci è andato, ma non l'ha voluto, cazzo si è incazzato con tutti qua. Avrà recuperato dopo se avrà fatto fuori un paio di video. Sì, vabbè. E una volta gli ho detto a Giancarlo, cazzo Giacomino non sta lavorando, comprati almeno le sigarette, cosa? E lui ha capito tutto aglio per cipolla, io li stavo facendo parte a lui e lui ha compreso che io cazzo ero disendi male a chi li comprava le sigarette. Vabbè, se avevo bevuto capivo male sì, e io lui ci ho visto capire male. Sì, ma poi era per maloso un bel. Avanti Maria Luisa, Maria Luisa non parla, ma Talino. Via. Giacomino ho trovato all'ufficio di collocamento un paio di giorni, un mese fa, va, un paio di mesi fa c'era. E Giacomino, anche Bidu, guidava alla perfezione, è un bravo autista mi Giacomino, è un peccato che... E quando gli offrivano i viaggi, se non dicevano quanto voleva lui, anche per 50 medaglie di meno non ci andava. E Giacomino, sono 30 Giacomino. È bravo anche guidando, guidava bene, poi l'avevano praticamente buttato fuori perché beveva. Ma entra sempre così in comune a lavorare per 3 mesi, poi sta un po' fermo e poi lo richiama. Sì. Magari allora sarei dovuto rientrare io lì, per il meglio. Che senti io in bara 2. Gianni, tu Gianni che ti toccava la Iana di notte a te da me? Come? Ma per forza, cioè, te lo ricordi a Gianni quello che veniva a bussarci la porta di notte che gli faceva male i denti? Gianni il vigile, cazzo non so, e la voglia non il vigile, quello fra Bigamuro, visto o che sentiva male la moglie o che gli faceva male i denti. No, noi siamo dentisti, no? Cosa ti possiamo fare? Se ti fa male il dente per dirti una pastiglia, diceva. No, portatemi all'ospedale. Poi una volta si era incazzato perché non avevamo portato perché aveva mal di denti. Ho capito il malattore come dici tu, ma si chiama il soprannome già Oh, pensavo che fosse il vigile, che stai dicendo che era il vigile. Facevamo il notturno, veniva sempre a bussare perché non c'aveva il telefono, allora bussava alla porta, boom boom boom, gli azzocco. Tanto meno dici, boh, qua una volta a Giovanni mi ricordo un muro, caso mi viene a svegliare che dice che non ce la faceva respirare, che c'era tutta la persona in fuoco e cose, caso del reggito, caso Matteo, fuoco, cioè, vabbè, cosa c'è, io so, c'è niente, non c'è tutta la persona in fuoco, mi sento in fiamme. Dicevano che era mandrone, non voleva andare a lavorare e lo faceva apposta per mettersi in malattia. Una cosa, l'unica volta che l'ho visto io male, quello lì è quando lo sagamava la moglie e cazzo lo sbatteva il muro. Quello beveva. Ascolta, la calco di agosto la moglie lo muniva a mano e poi ci andava, non so che cosa, a trovare e a rompere palle lì. E poi veniva a Dodda. Rubato. Si è tutta rubata. E una volta, senza essere in gutto, c'erano dei ragazzi quando stavano pescando a produttore, al molo, che correvano con la macchina, facevano testa e coda. A un certo punto, guarda, questo qui fa testa e coda, la piglia di rumbaro, di chi si siede di due, quelli che hanno i fari da 100 watt, da quanto so, la biglia di impiego. Con la base di Darido si gira della macchina, boom, e tutti quanti i pescatori hanno mollato le cane, tutti facendo l'applauso. Oh, non si è levato manco dalla macchina, si è avviato, due sgommenti, si è andato. Thank you. fornisce, là. Metti grido. Oh, via. Ancora questi due finisce. Ma diciamo che sono ancora arretrati un po'. Valenza? Ah, Guarda, io ne ho visto uno pescando e senza canna. Sono andato alle 10 di mattina a Oratte, a Plattamona, al settimo piede, ho visto questo tipo che aveva una palla con un cordone, la faceva camminare nell'acqua. E praticamente sotto questa palla c'era tipo un parametro, tutto pieno di ami con l'esca attaccata. E se vede la roba che ne ha cavato. Diceva dove aveva agganciato il pesce, c'aveva l'amo con l'ancoretta, c'aveva l'amo sotto, l'ancoretta un po' più su, e pescava col galleggiante, ci metteva sia nell'ancoretta che nell'amo, metteva il pane, la pastetta, diciamo. Poi dice che era una pastetta genovese, questo era un genovese che qua non si trova. Fatto sta che come si abbassava il galleggiante, dava lo strappone e diceva: questo qui l'ho preso la branchia, lo alzava e la bio della branchia, l'altro l'ho preso la coda. La gente era tutta quanta incantata guardandoselo. Ha detto che lui viene una volta all'anno qua per un mese per pescare solo, perché là le acque sono sporche. Dice: qua ci avete il pesce, ma sapete pescare voi. Di gallina attaccata a un pezzo di corda, nemmeno lenta, corda proprio, una corda bianca. Questa zampa di gallina, nella parte superiore c'era un straccio bianco e sotto era tutta piena di ancorette. Questa zampa di gallina la faceva salire e scendere. Come la faceva salire e scendere? La zampa di gallina si muove, no? E attira i pulpi. Come lo attira, il pulpo va a agganciarsi e lo tira con l'ancoretta. Lo sai la roba dei pulpi che prendeva questo signore? Ogni mattina c'era. Metteva il piombo dentro, e lanciava. Thank you. abbiamo con le filacce come lo so io, l'ambo il piombo scorre con le filacce sotto. E così già non ti può succedere difficile, da. Se si blocca la gamba per andare in duia. Fa quante volte lo lasci libero il mulinello, vai a lanciare magari un piccolo nodo, un pezzo di alga, non so se ti blocca la lenza e ti torna da ridere. Sai che cosa ho fatto? Per 15 volte sono andato al largo a portare la lenza e uno mi ha detto: Sibilli Dorada di Rammeriddeggi, ti Rammeriddeggi a chi si travagliando un bel. Beh, ho fatto sai che l'ho presa una e mi ha detto: ti la sei meritata, già ti l'hai travagliata. Allora, devo le pinne. Le pinne via e la portavo, prendevo il piombo in mano e poi nuotavo con tranquillità, senza stare a sbracciare forte e cose, con tranquillità, piano piano. Quando era arrivata la lenza, l'amico mio da lontano mi faceva con le braccia così in segno e mi bloccavo 15 volte, una volta le ho contate. Ma facendo così ho tirato un'orata bella Pierpa, fino alla battigia, mi è scappata la battigia, cazzo, guarda, un incazzo, bella, ne sarà stata 3 kg e mezzo, 4 kg, ma cazzo, la busta che è arrivata in mezzo a mare, tutto il braccio. Pure l'altra che faccio è l'estate questo, entro col costumino, si deve toccarmi la pancia, poi quando mi tocca la pancia lancio e così recupero un bel di metri di lancio e riesco ad arrivare alle secche dove devo arrivare, alla seconda secca dove passano le orate. E se la regala in barca direttamente, io l'ho fatta anche col gomoncino. L'inverno una volta tutto vestito, che sei venuto a mondo e mi sei rappato il gomoncino, che sei tutto infuso, mi avrei dunque. Io e Antonio, questo amico mio, eravamo un bel partiti, abbiamo fatto tutti i colori. Di tutti i colori, camminate strane a Portoferro dopo la torretta lì, mica se roba di Taruto prendevamo lì. E anche al lancio là, io ho sempre preferito il molo perché è pulito. Mi siedo tranquillo, mi fumo una sigaretta, non mi imbrutto. E mi spiaggia se ti vai a beffa. La rocca l'audio da una volta che questo amico mio, non so se te l'ho mai raccontato, stavamo andando prima a Sentino, ci hanno fermato i carabinieri, ci hanno puntato il mitra addosso, questo amico mio gli ha detto: per cortesia mi rotto il mitra, dice: io non so se siete in quanto che si scende dalla macchina, ci fanno scendere, che si tutti tribunali, vabbè, poi abbiamo fatto amicizia, ci hanno detto: scusateci, ma noi non sappiamo mai con chi cappiamo, ho detto: vabbè, avete ragione, ma sai, in faccia dà un po' di, fa un po' di senso, cos'è, cioè. Poi ci hanno detto: dove state andando a pescare? E dove andate a pescare? E gli abbiamo detto il posto, meno male gli abbiamo detto, oh, io, stavi come io, cavolo, mi è caduto dalla rocca, abbiamo messo i filacci, ho sentito il baratto, per papà che c'era il baratto di attaccati, detto, l'ho chiamato, guarda che c'è il grongo, guarda che c'è il grongo, e invece vedendo che si è caggiuto giù. E basta un po' di quella melma che fa scivolare, lì era tutto pieno di quella melma marina lì, che fa scivolare un bel, basta che ci mettete lì e ci gaggi da matti. Decidiamo, andiamo a pescare. E se lo dico, te sa tu. A passare il tempo, una notte invece sprecare girando, la sprechiamo a pescare. A guardare, no, perché poi ti viene a parlare e se aiuto, a me fanno il cesto. C'è il posto appoggiato, il gatto di voi, dove vado io ci sono i lastroni in cemento, quindi che mettono davanti per le macchine, ti bubuzza per punire la gana dentro perché ci sono gli anelli. Gabba gabba. Bene, tappa del freddo. E la volta che siamo andati al grelo, che nottata, mi ha fulmine, mi stavo anche spaventando, i fulmini sono caduti vicino. Cambia un po' il tempo, qui sarà, ci sarà il pianone dove vado io, lì si pesca bene a vivo. Siamo state lottate che è una libriglia dolunda, ma solitamente ho fatto delle belle pescate, la tarina già passata. Invece la pila, quella pescatore, ma già la luce già serve sempre lì, anche se ce n'è anche le lampione e cose, quindi va bene. E lì hanno tutto il cazzo bussurato, se no prima roba di orate e bigliafanica. Saricchia. Farò della macchia. Io ho visto gente con la batteria con il farò della macchia. Poggerò. No, non ci sto più. Lo sto pensando, ma non capisco come, qualche dinamo, qualche dinamo c'è. Non ci arrivo. Come ce l'hai a petrolio? Non avevo che voce, ma una di quelle pile, mi pare, a 3.000... Boh, la luce come si misura quella lì, a... 3.000, oh, non mi viene la parola, lux, 3.000 lux, cazzo facciamo una luce allucinante, la volta che ho preso quel polpo che l'ha illuminato, metto, questa è una piovra, cazzo, è brigata una piovra, te ne intira dentro. Il gruppo elettronico e come va? Da su inno alla buona e siamo via con i plazzi, non è vale la pena. non bisogna fare rumore quando si pesca, è sempre in silenzio. Perché cosa lo usavi quello lì? Vabbè. Non ti manca nulla, no, per fa. Che fegato grosso, no, beh. Sì. Allora lo consumi tutto, eh. Noi ci stiamo molto di più. Da sonno, ammettilo. Avagava, allora mi sbaglio, va. Chi era rimasto? C'era Franco California, che poi non è più entrato, Franco. Praticamente cromo a naturale sollecita l'insulina e me la sta guarda regolarizzando in una maniera allucinante. Beh, se ne approfitti con i carboidrati si è fottito. E io mi sto facendo una cultura un po', una cultura alimentare, sto andando a corso e cose del genere, quando va mia moglie vado anch'io, mi sto facendo questa cultura alimentare. Oggi per dire ho sentito dire una cosa che non mi sarei mai immaginato, questo dottore e nutrizionista ha detto che mangiare la carne molto spesso porta all'impotenza. Invece dei bambini porta la crescita più sviluppata, nel senso che una bambina di 6 anni dice che cominciava a avere la crescita del seno, il peli nel pube, eccetera, eccetera. Dice che porta la crescita più avanzata nelle donne. Nei maschi invece porta l'impotenza. Mi piace tutto, la pasta russo, semino, io se guidato già mi piace. Ma mia moglie ha un modo di cucinare i petti di pollo che mi piaceva molto, ma molto però, ecco come li fa, con le cipolle, li mette i capperi, un po' di pomodori a pezzi, ma sono così saporiti e poi non si tira asciutto il petto di pollo, mi fa piacere mangiare. C'era un periodo che mangiavo carni bianche e pesce, tu devi vedere come ero diventato. Vabbè, come li puoi chiamare, e li fa così, mi piace non bene, perché non li lascia l'asciutto, capito, che c'è il petto di pollo di solito. Anche l'origano, no, non è la pizzaiola, allora mi fa con i capperi, cipolle, pezzi di pomodoro fatta a fettine, fatti così, e poi li fa rosolare così, me li dà un buon sapore veramente, ma magari ci può mettere anche l'origano, toglie quel sapore asciutto che c'ha, e vedi, fatta grigliata così come dici tu, ti mancano più asciutti però, oppure mi piacciono anche, non so se ti piace il rene fatto alla cacciatora, il fegato però vuole fresco, se no c'ha quel saporaccio schifoso, il fegato vuole molto fresco, appena macellato è buono. Io gli do due passatori fatto arrosto, il fegato è favoloso, oppure fatto così come dici tu, alla cacciatora, così con le cipolle e il vino, e così mi piace anche il coniglio. fina, bella. Quando, e lo voglio il fegato un po' grosso, non mi piace il fino, perché si deve sentire proprio il sapore. E come ti sto dicendo io, cipolle e vino. E come sto dicendo io, così mi piace a me. E mamma faceva anche i fegatini dell'agnello così. La birra. Birra, sì. Yeah, yeah. Sì, la birra lo fa più leggero. Più leggero, rimane meno pesante con la birra. Sembrava una gattata, però quando me l'hanno detto, provato, me l'ha detto un cuoco e non ho mancante. Me l'ha detto un amico che fa il cuoco, che tra l'altro oggi hanno licenziato. È andato a lavorare a Santa Teresa e dice che era cosparso di marocchini che lavoravano in cucina. Il principale dice che si vazia questa marocchina che lavorava in cucina e questa qua stava sempre rompendo le palle. Alla fine se n'è andato, si è rotto le scatole e gli ha detto pagami chi si deve pagare, ma ne sono grandelli. Andava sempre a ragionare a lì, no lui. Ti do domani su, no va, mi li dai, perché io domani a Santa Teresa non ci trovo, mi dai, va, e mi da di va, e tu la devo ridire a Bouchac. L'aveva preso per tutta la stagione, poi ha detto che era, c'erano marocchini tutti quanti in cucina, cuochi, insomma, dice che avevano, erano molto, tra di loro molto solidari, capito? E quindi, e dunque siamo di vazia e mezzo, facevano quello che volevano loro. Poi il tipo del ristorante, il padrone, dice che se la faceva con questa marocchina che lavorava in cucina, quindi non poteva fare niente, dava sempre ragione a loro. Sì, ma dice che si avevano anche creato il territorio loro, capito? Tra di loro erano coalizzati, si aiutavano con l'altro e andavano contro di lui, quindi alla fine non si poteva lavorare in questa maniera. Pensa a Gandori, si manda le burro al padrone. E Guida ha ragione, quando va nei posti trovi sempre gente, però ha detto che lui era proprio circondato, abbia un bel di niente di visa marocchina e per pagarla poco, capito? Gli sta dicendo fila a letto perché non vuole andare a letto. Oh, mia moglie a Marcolino sta dicendo fila a letto perché, non c'è, perché è sempre in giro, sino a tardi. Finite e il prossimo anno lo mandiamo in un'altra scuola, lo mandiamo in un'altra scuola perché queste maestre non ci hanno soddisfatto molto, anche se ci hanno pregato di lasciarlo, di... Che ha detto questa maestra che non ha dormito al pensiero che se ne andava, che è così bello, così simpatico, e poi specialmente dice che è molto spontaneo, quando deve dire la cosa lui la dice, alza la mano, signora maestra, perché ripete sempre questa parola? No, lo mettiamo al quadrato, vicino al quadrato, via. Perché fanno tempo pieno lì. Ma no, non c'è ancora, ho fatto io le scuole, ma adesso è tutto diverso. Yeah. Sì. mescola, non è quello lì. È che i massi sono un po' cadarito con il programma. Pensa che la figlia di mia comare nella sesta scuola, nella sesta classe, però in quella scuola dove lo dobbiamo mandare adesso aveva fatto già 5 quaderni di roba, ne aveva fatto solo 2. Allora, molto indietro col programma, sono matti così, una che è laureata l'anno scorso, un'altra, non so, la maestra smontagliata si è lamentata che di cambiare di scuola proprio. Infatti abbiamo trovato la scusa che ci dobbiamo trasferire di casa e non possiamo farne a meno. Seguito anche a casa, quindi il programma noi lo stiamo portando avanti noi, in base a quel quaderno che aveva mia comare, ce li ha dati e abbiamo fatto fare quel programma lì, capito? Di modo che non restasse indietro degli altri. Queste magari lavorano anche, ma non lo sanno fare, perché la madre di una di quelle maestre lì è una del Porto Torres che veniva a comprare da noi e ci ha detto: ehi, non è che sia maestra, mia figlia è stata laureata l'anno scorso e gli aveva dato questo posto qui provvisoriamente. Succedendo. quello di Abu Furendino. Ci sono quelle squadracce di albanesi che fanno nella zona di Coso, come si chiama, di Brescia, quella zona lì. Andare i cudini che si divisano dritto in casa, si preienti, i cudini, la ammazza, mi sa di fuori la roba. E anche io andavo a comprare il pane a mamma, in Viale Sicilia, io abitavo a Sacro Cuore, avevo 6 anni, andavo e riprendevo il pane, mamma mi diceva, mi raccomando, cammina nel marciapiede, non dare retta a nessuno, cammina dritto a casa, vai, compri il pane e tu, mi senti a fermarti. E io così facevo, prendevo il pane che la buccia era più bella di me. Si è avvicinato un padre di uno dei bambini, si è avviato e si è bigiunto. Utilizzano i bambini per fare queste cose di modo che siano sospettabili. guardia ci sono, adesso stanno controllando con le cinofie, questo con l'altro. Vabbè che a Sassari non se li vedi, e io dico la verità, l'unica sentita sono i continenti che ci sono e basta. E lì vanno quei cani antidroga, tutta la finanza, eccetera, eccetera. Quando escono la scuola li controllano. Ci sono gli anziani, i vigili anziani, nel senso che sono nonni in pensione, che hanno il giubbottino fosforescente, la palette per far attraversare i bambini. Buonanotte, ciao ciao. Tu le certi altri amici che sono all'ascolto, ciao Lattalino se mi sta ascoltando.